fornito una base testuale molto più ampia, molto più articolata, che ha provocato anche di rincalzo una rinascita dell'interesse per il pensiero di Heidegger. E l'avvenimento, diremmo così, di cui noi anche oggi, questa mattina e domani abbiamo parlato, che è l'avvenimento che ha in qualche modo segnato questa svolta negli studi heideggeriani, è un po' la pubblicazione della cosiddetta Gesamtausgabe Letzte Hand, cioè della edizione delle opere Ne Varietur, che comprende, oltre agli scritti che già Heidegger stesso aveva pubblicato in vita, anche tutta la serie dei corsi universitari e dei manoscritti e dei trattati inediti non pubblicati durante la vita stessa di Heidegger. Benché cominciata solo nel 75, un anno prima dunque della morte di Heidegger, questa edizione ha già visto la pubblicazione realizzata, credo, di una quarantina di volumi. E in particolare i volumi della seconda sezione, che comprende le lezioni universitarie di Heidegger, ci hanno offerto uno spaccato molto ampio e anche per aspetti importanti del tutto nuovo su, diremmo, quello che potremmo chiamare l'officina o il laboratorio di Heidegger, in particolare per quel periodo che va dalla pubblicazione della tesi di libera docenza fino alla pubblicazione di Essere Tempo, cioè in quel periodo del silenzio decennale in cui Heidegger lavora ad Essere Tempo. Ora abbiamo una serie quasi ininterrotta di corsi che Heidegger tiene in questo periodo, che ci permette appunto di conoscere molto meglio tutto quel cimento, quel confronto speculativo con la tradizione del pensiero occidentale, con i problemi del pensiero contemporaneo con i quali appunto Heidegger si confronta, che lo portano a maturare quel progetto che appunto poi steso in Essere Tempo. Assieme ad altri fattori, come una, io direi, una omogeneità sostanziale del tipo di pensiero che Heidegger di fatto ha proposto, con un certo indirizzo o certi indirizzi della filosofia contemporanea, questa edizione ha, come dicevo prima, contribuito, mi pare, a risvegliare l'interesse per Heidegger, e non solo, credo, l'interesse specialistico indirizzato a quella che può essere una ricostruzione più precisa, più puntuale o più continua di quello che è stato il cammino di Heidegger, ma anche direi ha contribuito ad accostarci ad Heidegger in maniera meno esoterica, nel senso che in queste lezioni evidentemente lo sforzo di Heidegger di trasmettere un contenuto di pensiero è meno filtrato attraverso la istanza di un'elaborazione di un linguaggio originale, e dunque si presenta spesso in maniera molto più piana e più comprensibile di quanto non siano spesso invece gli altri suoi scritti, che hanno a volte appunto un andamento più criptico, esoterico. Da questo punto di vista direi che questo è l'avvenimento, diremmo così, sia nel mondo degli studi heideggeriani, ma in generale direi che è anche, se si guarda a livello delle cose che vengono pubblicate in filosofia in questi anni, certamente uno degli avvenimenti editoriali filosofici più importanti di questa fine di secolo. E per il tema, direi, che noi oggi discutiamo qui in questo convegno, cioè il problema della teologia, direi che anche su questo punto i testi della Gesamtausgabe hanno portato delle novità, e in particolare, e con questo forse ho risposto alla tua interrogazione, in particolare la pubblicazione dei contributi alla filosofia o dell'evento, cioè la pubblicazione di un grosso manoscritto che nella versione latinoscritta occupa più o meno 900 pagine, che è avvenuta proprio quest'anno in occasione del centenario della nascita del filosofo, e nella quale una intera parte, una intera sezione è dedicata proprio al problema di quello che Heidegger chiama l'ultimo Dio. Quindi, tra l'altro è un'opera che Heidegger appunto non ha pubblicato in vita e che non ha nemmeno fatto circolare troppo tra amici e allievi, e che ha scritto nel giro di circa 2 anni, dal 36 al 38, e che presenta degli aspetti, direi, fortemente originali o atipici rispetto a quello che era la parte immersa della riflessione heideggeriana sul problema del sacro e del divino, nel senso che noi avevamo fino ad oggi, da un lato, alcune prese di posizione del primo Heidegger come fenomenologia e teologia, no? Sulla linea di quella che è la posizione di essere tempo. Dall'altro lato avevamo naturalmente le posizioni dell'ultimissimo Heidegger, ma di quel periodo, periodo cruciale, e con quell'estensione credo non avessimo nulla che ci chiarisse in modo così articolato il rapporto di Heidegger con questo problema. Dunque direi che insomma, in questo modo si potrebbe così... È una domanda molto sottile. Una domanda molto sottile. Cioè, praticamente ho detto, com'è possibile che uno che scrive tutta la vita, no? Ed è ovvio che in Germania sono abituati anche a tutte le parti. Uno, quando prima di fare un libro, scrive, fa 5-6 anni di lezioni accademiche e fa un sacco di appunti e li mette via. Altri li rompono, altri invece sono così sereni come i tedeschi, sono bestiali, mettono via tutto, no? Allora, per caso, Heidegger, altri invece non sono Heidegger, è ovvio, no? Allora dopo bisogna buttarli via dopo. Ma Heidegger li ha messi via tutti. Allora, quando è arrivato, sono arrivati la moglie, farsi friggere, è arrivato il figlio che praticamente che non è un intellettuale, non è intellettuale. Allora, lui vuole fare anche soldi, ma questa è cattiva la domanda. Cioè, com'è possibile che uno che scrive, io ho letto tutti i libri di Heidegger, ma adesso se mi penso di leggere l'opera postuma, che è immensa, io non ce la faccio. A prescindere che non l'ho pagata io e paga l'istituto, questo non c'è. Ma dico, già comprarla costa l'ira di Dio, no? Adesso io ho letto tutto e devo cominciare da capo. Così, perché devo cominciare da capo? Non capisco. Cioè, nelle opere che Heidegger ha scritto, è già sintetizzato tutto quel lavoro precedente che lui fa lezione. Quando uno fa lezione universitaria fa i seminari, fa un seminario su Schopenhauer, su Hegel, eccetera, e nei seminari dice anche la sua espressione, la sua interpretazione, no? Vabbè, ma la butta là, sono appunti, e dopo li metti via, li legge, e dopo alla fine si siede, quando va nella sua casetta di montagna, e scrive sul libretto. Quando muore, arriva il figlio, lì altri trovano tutto quanto la biblioteca piena, e Heidegger, ora tutto deve essere edito. Allora, la domanda cattiva è questa, cioè, è una propaganda, ma no, è cattivissima come domanda, è una propaganda da parte degli eredi, perché immaginate miliardi che fanno, lasciamo stare Nietzsche, quando la sorella, quando arrivati tutti, allora tutta l'opera postuma, lei si è visto miliardario in poco tempo, no? Facciamo Nietzsche, ma saltiamo Nietzsche, premo Heidegger, no? Heidegger vivo e figlio, quindi passi a vedere botte. Ma però praticamente è questo il mio problema. Cioè è possibile che uno possa scrivere, avere 40 volumi messi là e ne ha fatti pochi rispetto a quei 40? È ovvio che gli appunti sono immensi. Ecco, adesso avete il mio microfono. Allora, la domanda cattiva è questa. C'è metà cattiva, metà buona. Ecco, sì, sì. Tu puoi rispondere perché tu sei dentro. No, io ti do in parte ragione, in parte torto. Ecco, metà cattiva, metà buona. La parte cattiva, metà torto. Sì, nel senso che cioè, è lecito, adesso fuori di metafora. Sì. Noi possiamo dire, insomma, che contributo dobbiamo aspettarci dalla pubblicazione di questi 100 volumi rispetto a quello che già conoscevamo di Heidegger. Saranno circa 100 volumi. Sì. È assurdo. E diciamo che la domanda è buona e naturalmente anche sottile, perché effettivamente se uno conosce il retroscena di com'è nata l'edizione, che probabilmente il nostro amico Giorgio conosce e per questo ci fa la domanda, sa anche che in realtà Heidegger non pensava affatto di fare questa edizione. Cioè Heidegger, o meglio, pensava di depositare i quaderni, i testi sui quali aveva lavorato per 100 anni e solo dopo 100 anni si sarebbe potuto avere accesso a queste cose. Ed è stato appunto il figlio, negli ultimi anni della sua vita, a convincerlo a cambiare idea, a pubblicare questa edizione che indubbiamente, come maliziosamente tu suggerisci, è certamente anche un grande affare. Da questo punto di vista la tua domanda credo sicuramente abbia un suo fondamento. Tuttavia, e poi c'è un'altra ragione per la quale è un fondamento, ma lo dirò dopo per riagganciare al tema, no, della nostra discussione, per riagganciarmi al tema della discussione. Tuttavia c'è, direi, una ragione fondamentale che noi non possiamo ignorare e che è la ragione dell'interesse che mostrano questi testi, perché lì noi vediamo all'opera e non nel risultato finito la riflessione heideggeriana nel suo snodarsi, articolarsi, svilupparsi, fare passi indietro, avanzare, prima di arrivare a un risultato codificato e definitivo come ce lo trasmettono le opere pubblicate. Non solo, ma spesso in questo lavoro, diremmo così, non spiato, non osservato dagli studiosi, insomma Heidegger scrive queste cose, diremmo così, spesso così nel, per sé, per preparare il proprio lavoro di insegnante, egli è evidentemente anche molto meno cauto a cancellare le tracce sulle quali noi lo possiamo seguire molto meglio ora con questi testi, riconoscendo anche i luoghi dai quali lui va a cercare, i luoghi nei quali va a trovare, diremmo così, cose che poi elabora certamente in maniera originale. Quindi da questo punto di vista questo ci permette una conoscenza certamente migliore, no, del pensiero heideggeriano, e io credo che alcune cose sono spesso più interessanti in questa formulazione, non diremmo così filtrata attraverso una serie di codici, che non nella loro versione definitiva. Ma un'altra ragione, cioè ecco un altro elemento che mi permette di riagganciarmi al tema e di rispondere anche o riprendere la tua osservazione è questo, cioè che certamente noi dobbiamo tuttavia, nonostante il fortissimo e grossissimo interesse che peraltro questi testi anche hanno suscitato, perché come sapete, pur essendo cominciata la pubblicazione nel 75, essa è già avanzata al punto che 40 volumi sono usciti, e anche è avanzata al punto tale che è stata in gran parte tradotta in molte lingue straniere, anche in italiano, no, tra l'altro. Ecco. Tuttavia io credo che noi dobbiamo, o sia opportuno da parte nostra, un atteggiamento di grande cautela intorno a quelle che vengono annunciate, diremo così, dai portatori ufficiali di questo lascito, di queste opere, come segnali o tracce per la interpretazione del pensiero heideggeriano. E credo che una di queste tracce che sono state sapientemente distribuite e che hanno in qualche modo condizionato anche finora perlomeno la recezione della cosa è proprio la traccia interpretativa suggerita a proposito dei Beiträge zur Philosophie. I Beiträge zur Philosophie sono stati annunciati come l'opera maggiore di Heidegger da prima, poi come l'opera maggiore del secondo Heidegger, e in qualche modo si era suscitata l'impressione che con questo testo, che certamente è imponente, impressione, Heidegger in qualche modo arrivasse a un'espressione speculativa comparabile a quella poi tradottasi in Essere e Tempo e in qualche modo anche rappresentativa per la posizione di quello che grossolanamente viene designato come il secondo Heidegger, quindi come la posizione in qualche modo testamentaria di Heidegger, i Beiträge, la grande opera che Heidegger non ha pubblicato, che ora finalmente viene alla luce. Ora qui per provocare, io direi che, poi possiamo discutere, che la prospettiva che con i Beiträge è aperta da Heidegger viene subito chiusa a 2 anni di distanza, e credo che questa sia anche una delle ragioni per cui Heidegger non pubblica la cosa, dal confronto che Heidegger, proprio negli stessi anni in cui porta a compimento i Beiträge, comincia con Nietzsche. Il discorso intorno all'ultimo Dio, che nella versione manoscritta chiude il libro, mentre in quella pubblicata la cosa è stata un po' cambiata, a mio avviso è un discorso che Heidegger apre in quegli anni, ma che curiosamente non ritorna più nell'ultimo Heidegger e che a mio avviso viene assolutamente consumato dal suo confronto con Nietzsche, che io pongo dopo i Beiträge e non prima dei Beiträge. Grazie, si potrebbe ancora parlare a lungo, ma siccome abbiamo parecchi, allora i nostri presenti relatori hanno scritto tutti su Heidi, anche voi perché ha tradotto, scritto. Allora io così passo a caso, avendo che sei il primo che è a sinistra, siccome abbiamo pochissimo tempo, devi essere così gentile di rispondere brevemente, cioè tu hai scritto su Heidi, allora in 5-8 minuti devi dare la tua lettura di Heidegger, la tua impressione, così. Ognuno di voi, la domanda è precisa, cioè tutti voi avete scritto su Heidegger e ognuno di voi dovete dire la vostra impressione, perché avete scritto prima, perché vi siete avvicinati, facciamo la domanda un po' più precisa, perché vi siete avvicinati a Heidegger e qual è stata la vostra lettura o interpretazione di Heidegger. E cominciamo con il nostro amico Regina. La domanda è estremamente imbarazzante, dire in 5 minuti. Non ci viene scampo. D'accordo. Allora io prendo una scappatoia, per una scorciatoia. Una scorciatoia, cioè perché mi sono interessato di Heidegger? Me lo chiedo spesso ancora, perché Heidegger l'avevo preso per scherzo e mi ha preso invece 20 anni. Ecco. E perché l'ho fatto? Ma mi sono posto una questione recentemente leggendo appunto i Beiträge. A un certo momento nei Beiträge, su cui ho un parere diverso da quello del professor Volpi, ho incontrato un'espressione che riguarda la fede, dove Heidegger dice: io sono il vero credente, l'uomo che ha davvero fede. Perché dice questo? Questo lo dice Fabio, basta. No, momento, lo dice Heidegger nei Beiträge. Ecco, si dà la battuta del professore. Ecco, questa di Heidegger invece è proprio una battuta anticonfessionale che spiega molte cose, perché dice: voi ritenete che il credere sia il tenere per vero, für wahr halten, tenere per vero qualcosa. Invece per me il credere è il tenersi nella verità, tenere se stessi E come si fa a tenere se stessi nella verità e non il tenere per vero? Col domandare, con l'indagare, instancabilmente. Questa è la vera fede. Non perché si dubiti della verità, ma perché di verità ce n'è sempre da scoprire. E per me i Baitreghi sono stati davvero un contributo interessantissimo, una novità consolante anche per la mia interpretazione, perché appunto hanno rivelato che Heidegger cerca, perché crede da filosofo, in un essere che si dà, si dona, ci coinvolge al di là di tutte le fedi, per così dire, belle fatte, quelle che Heidegger chiama la metafisica nella seconda fase del suo pensiero. Perché voi, dice, all'Occidente che lui contesta, siete dei pigri fondamentalmente, chiudete il vostro pensiero, voi uomini potete pensare di più di quel che avete fatto finora, siete dei pigri, questa è la vostra colpa. Una colpa che si può capire da un certo punto di vista e che io vi spiego appunto con questo confronto che fa nei Baitreghi fra i due inizi. Finora voi siete stati dominati da un primo inizio, siete anzi decaduti costantemente, siete sempre stati inferiori alla vostra origine. Io vi propongo un altro inizio che non è il secondo inizio, è un altro inizio di diritto, che non siete voi, è qualcosa di altro. Per questo la figura dell'ultimo Dio è davvero interessantissima, che non è il Dio certo della metafisica, non è il Dio della scolastica, non ha nemmeno l'essere questo Dio, è bisogno di essere. E Heidegger confessa in questo manoscritto che non sa nemmeno lui cosa voglia dire, però Dio è bisogno di essere, è bisogno anche lui di radicalità, per così dire, di arrivarci fino in fondo alle cose, ed è per questo che ha bisogno dell'uomo, perché che l'uomo ha bisogno di andare in fondo alle cose. E capiamo così quella bella espressione che chiude, ecco, Heidegger fece una conferenza sull'essenza della tecnica e alla fine ricevette l'applauso più bello della sua vita, fragoroso, travolgente. Perché? Perché disse la pietà, il domandare è la pietà del pensiero, la Frömmigkeit des Denkens. E tutto l'uditorio, fatto anche da non filosofi, si sentì coinvolto da questo pensatore così oscuro, perché aveva comunicato loro davvero la grande dignità, la grande fede dell'uomo. Un'ultima cosa, se mi si permette. Ma devo fare un'altra domanda. Comprendiamo così anche da questo punto di vista la sua posizione giovanile del 27 in fenomenologia e teologia, dove dice che la filosofia fa da correttivo alla teologia e mette un trattino, correttivo, cioè che regge insieme, conregge. Perché la filosofia è così importante per la teologia, anche se di per sé tratta di cose tutte diverse, anche se per sé c'è inconciliabilità sui contenuti e anche sui metodi? Perché appunto la filosofia, per così dire, apre degli spazi alla pigrizia, non dico della teologia, ma dei teologi sì, perché anche i teologi possono impigrirsi. E la filosofia li va un po' a disturbare, fa vedere che possono pensare la fede in maggior profondità, credendo di più, avendo più fede di quella che credono di aver già belle definite. Però anche i teologi, anche i filosofi vengono però mossi dai teologi. Certamente, certamente. Sono dogmatici, sì, più sì, di sì, teologi. La seconda domanda, ma brevissima devi essere, te la faccio, perché dal momento che tu parli di fede, tu hai scritto un bel libro su David Strauss. Ora, a me, per me David Strauss è la nuova pista per capire Nietzsche, no? La fede di Nietzsche, David Strauss. Allora, due parole devi dirmi. Cosa tu hai imparato da David Strauss? Cosa ti ha dato? Nei riguardi di Heidegger, cosa ti ha dato? Ma in due parole, perché... Perché non tutti possono sapere chi è Davide Federico Strauss. Lo dico in due parole. Nel 1835 questo signore disse praticamente che i Vangeli canonici, vero, non hanno consistenza storica e, o meglio, che il filo cronologico, la storia, il racconto evangelico non è scientificamente, vero, accettabile dal punto proprio della costruzione del racconto. Non lo possiamo prendere per una cronaca. Disse, uso una parola grossa, che era invece una produzione mitica. Questo mito fu frainteso e nel mio libro ho voluto far vedere che in fin dei conti sotto questa parola così scandalosa, mito, si nasconde invece cose che per noi sono diventate, per i biblisti migliore, cose di ordinaria amministrazione. Ad esempio che c'è stato un lavoro redazionale, ad esempio che gli evangelisti si sono lasciati influenzare molto dall'Antico Testamento, che proprio non erano dei cronisti. Non erano affatto dei cronisti, che avevano impegno teologico, che volevano comunicare un messaggio di salvezza, un messaggio talmente potente che ha attraversato i millenni e parla ancora a noi. Strauss ha fatto un'operazione di distruzione, ma di che cosa? Di una metafisica storicistica, e così ha svegliato i teologi. Un'applicazione concreta di questa provocazione, vero, che la filosofia può fare. La filosofia va anche al di là dei propri intenti. Strauss non voleva fare questo, voleva chiuderla col cristianesimo. E infatti pubblicò un libro che poi suscitò le ire di Nietzsche, La vecchia e la nuova fede, dove voleva proporre la scienza positivistica al posto, vero, della fede teologica. Le cose andarono del tutto diversamente, che è vero, la fede positivistica è crollata e è diventato un pregiudizio, e invece la teologia, mossa da questo scandalo poderoso, ha camminato molto e addirittura ha incontrato i cattolici dopo più di 100 anni ad un traguardo interessante. I cattolici, che non hanno mai, per così dire, preso la Bibbia, il Nuovo Testamento, come il testo da interpretare personalmente, da leggere, ma che sempre hanno accettato la mediazione della tradizione, ecco che di fronte a questa opera distruttiva non si sono trovati così scandalizzati come i protestanti. Però grazie a Nietzsche. Grazie a Nietzsche. Buon Vabbè, sono Nietzsche. No, grazie a Nietzsche. Anche Bosio. Ha lavorato, scritto. Dunque. Sì. Guardate, la mia conoscenza di Heidegger risale a molto lontano, perché fui uno dei primi a leggere, ancora quando ero studente all'Università di Stato di Milano, il Nietzsche's Wort Gott ist tot, con quel poco di tedesco che avevo imparato da autodidatta che potevo sapere, e quello fu una scoperta, una rivelazione sconvolgente. Qualche corso su Heidegger fu tenuto di straforo con pochi studenti. Era un tabù, non si poteva toccare, un ambiente saturo di certezze neoilluministiche, neopositivistiche, filosofia della scienza, col marxismo all'orizzonte che cominciava ad affacciarsi, i conti con un passato rovinoso e disgraziato sembravano chiusi, si andava avanti trionfalmente verso una ricostruzione meravigliosa, e questa filosofia metteva in discussione tutto. Metteva in crisi tutto, metteva in crisi le divisioni del lavoro, dei compiti tra filosofia, teologia, religione, ci avvertiva che andiamo avanti verso una notte senza fine, che i poeti nel tempo di privazione, tutto questo veniva represso, rimosso, perché era tabù, era pericoloso, era addirittura un servizio reso alla reazione. Quello che allora era vietato, messo all'indice da un certo laicismo molto malinteso, tra l'altro, adesso è di dominio pubblico, è diventato addirittura così banale. Mi stava passando la voglia di ritornare a studiarci sopra, perché quando si sa le grandi parole diventano di dominio pubblico, perdono sempre, si logorano, insomma, perdono smalto e splendore. E però ho continuato, perché fare un certo tratto di strada, per quanto si può, insieme con un pensatore come Heidegger, è un'esperienza indubbiamente molto seria, esistenzialmente non è solo formativa, ma è esaltante. Però non bisogna che sia l'unico tra i compagni di strada, e si incontrano anche momenti di grande sconforto verso esiti che noi non sappiamo quali possono essere, cioè gli esiti di fondo che in mezzo a grandi e luminose aperture come quella sulla libertà, che in fondo l'identità fra essere uomo, la coappartenenza, si gioca sul piano della libertà, di questa libertà in cui, in questa contingenza in cui abbiamo da essere, ne va di noi stessi, nulla è gratuito, e neanche l'evento dell'essere, per quanto gratuito, spetta sempre a noi, insomma, saper leggere e saperci rivolgere. E qui però a un certo punto io mi sto accorgendo che per necessarie, insomma, esigenze personali, non solo per un vissuto personale, ma per esigenze di pensiero, c'è qualcosa che manca, qualcosa insomma di fronte a cui ci abbandona. L'esaltazione, diciamo, dell'imprevisto, dello storico, del legame, dell'abbraccio fra immanenza storica e memoria della trascendenza teologica, forse travolge del tutto la trascendenza teologica, questo è il pericolo che c'è, e forse non salva neanche l'immanenza storica come crede che si possa salvare. Io leggo nell'ultimo Heidegger un ritiro nel gioco, nell'intimità di una certa parola poetica che riconsacra, che risalva, e questo sì che è indubbiamente non solo un grande esercizio, ma un'eredità spirituale addirittura elevatissima, un compito, il compito cioè di lasciare al sapere, al pensare, una dimensione di libertà e di salvezza che riscatti in qualche modo le cose. Ma io, ecco, vedo a questo punto, e per abitudine sono conciso, badiamo bene che la filosofia lo ha sempre nelle grandi parole del grande pensiero cercato e voluto questo compito, e perché anche Hegel non parlava del sapere assoluto, e vi credete forse che il sapere assoluto era il sapere che trionfava perché era un sapere che sapeva tutto? No, era il sapere assoluto, che voleva dire il sapere libero, il sapere che lavora e che lotta in vista della libertà. È ovvio che questo sapere assoluto è stato poi inteso e interpretato come il sapere dell'élite dell'autocoscienza, il sapere di quelli che sanno perché rappresentano, perché hanno l'autocoscienza di tutto. Forse Hegel non l'ha inteso così, forse fu lui stesso indotto a fraintendersi. Heidegger ha risvegliato questo senso in un contesto molto adatto al nostro tempo, molto adatto alla nostra sensibilità, molto difficile da interpretare e anche molto difficile per una riappropriazione personale. Riappropriazione che passa anche però non solo attraverso l'individualità nostra, anche attraverso la nostra nazionalità, la nostra cultura. Confesso, starei un po' attento a quel germanesimo di fondo, dico insomma, spiace anche per gli amici tedeschi che capiscono l'italiano, quel germanesimo, quell'attaccamento a quel suolo, a quel Boden che propriamente confesso mi disturba, come ha disturbato altri tedeschi che non erano da poco, Adorno, Levit, sì va bene, questi avevano anche altre ragioni che lasciamo perdere, e probabilmente era un po' dal loro punto di vista avranno avuto ragione, avranno avuto torto, non stiamo a discutere. Quindi il cammino per la lettura, la reinterpretazione, la riscoperta è ancora molto lungo, è ancora molto difficile, richiede molto impegno personale. Non so quanto l'opera completa possa fare e possa aiutarci. Personalmente sto accostando l'opera Omnia in un modo che mi pare molto, molto fruttuoso. Sto cercando di vedere le linee di sviluppo in cui il pensiero dello Heidegger giovane, formato a motivi di scuola, disciplina, fortissima razionalità filosofica, profusione argomentativa notevole come nelle lezioni sul problema della verità, la logica, poi come tutto questo si condensi, si rifluisca nell'immagine, nella parola, l'ascesa del pensiero verso la ricerca della parola quasi, quasi miracolosa, della parola che con una frase o con una voce dice veramente tutto, dice tutto quello che il razionale, l'intellettuale, il logico, argomentando faticosamente non riesce mai a dire, ma è la stessa cosa. E lo assumo nell'orizzonte di una comprensione che non voglio sia la pura e semplice negazione del razionale, dell'impegno, della disciplina. Voi ricorderete quella famosa proposizione, la sentenza che chiude il saggio su Nietzsche: la ragione è la più acerrima nemica del pensiero. Cerchiamo di non vedere questa inimicizia nel senso del trionfo dell'irrazionale, esattamente, oppure delle interpretazioni, per così dire, che inneggiando alla crisi di tutto, alla fine dell'ideologia, svolgono certi discorsi di tipo qualunquistico, che non dico quali, addirittura insomma la fine di questo, la fine di quello, alibi e discorso di comodo per giustificare anche delle vere e proprie ribalderie, scusate. E adesso mi sembra aver parlato abbastanza, quindi bene, grazie. Si sente che ha una mentalità fenomenologica, subito. Allora adesso passiamo a Zanatta, che ha tradotto, professor Zanatta, che ha tradotto Aristotele, ha scritto su Heidegger. E allora vediamo così due parole di più studi. Ma io credo che anche al di là dell'aspetto autobiografico, che probabilmente meno, anzi senz'altro è meno interessante, credo che un motivo valido, forse il motivo valido per accostarsi a Heidegger sia la radicalità del suo pensiero. La radicalità del suo pensiero. Cosa, radicalità in un senso specifico, determinato, che poi il senso etimologico, cioè che va alla radice. E nel contesto dello sviluppo del pensiero heideggeriano, andare alla radice vuol dire mettere in discussione le categorie del pensiero occidentale. Ecco, francamente mi pare che prospettare la filosofia heideggeriana in termini di eccessiva mancanza di acculturazione, come certe volte può capitare, sia eccedere a una tentazione che va respinta. Se ci si addentra in una lettura paziente dell'opera di Heidegger, si vede proprio grosso spessore culturale, grosso retroterra di conoscenze. Ma ecco il punto, sono conoscenze che vengono sempre valorizzate, a mio avviso, ricercando la radice di quella che la cultura occidentale viene consegnando. E allora vorrei fissare l'attenzione anche per concretare determinatamente il senso di quello che vorrei dire. Il discorso su due punti: la messa in crisi della metafisica occidentale attraverso l'identità e la differenza, il rapporto tra identità e differenza, e appunto, visto che il tema del congresso, no, Heidegger e la teologia, l'apertura di Heidegger al sacro, la nuova apertura, no, che il pensiero di Heidegger può dare luogo nel sacro. Ecco, mi pare, mi riferisco espressamente a uno scritto, a una conferenza, Identità e differenze. Ecco, mi pare che Heidegger in questo scritto, rimeditando la nozione di identità, non come coincidenza, non come il tauton, no? L'idem per idem, ma come la coappartenenza, la Zusammengehörigkeit, la quale come tale comporta la salvaguardia del diverso in quanto tale, lasciato sussistere nella sua diversità, ma al tempo stesso nel suo traspropriarsi. Ecco, ponendo questa nozione di identità, ponga espressamente, mi pare, in discussione una delle categorie fondamentali del pensiero occidentale, alla cui base gioca la dialettica. Uno dei possibili modi della ermeneutica, del pensiero ermeneutico, in alternativa, proprio in alternativa al pensiero dialettico, è, secondo me, è da vedersi nella prospettazione di una identità non come istanza di coincidenza, ma come istanza di comprensione in un orizzonte in cui il diverso non può e non deve essere superato, ma anzi salvaguardato nel rispetto della sua diversità. E beh, dire questo vuol dire evidentemente rimeditare il senso della dialettica, il senso della legittimità del suo opporsi all'ermeneutica, e quindi è implicito anche una comparazione che nella mia interpretazione, la domanda del professor Penzo è: come leggi Heidegger? E ha già implicito la risposta, no? Se sia teoreticamente più condividibile il pensiero dialettico o il pensiero ermeneutico. Al tempo stesso però non riesco neppure a distaccarmi nel contemperare e nello storicizzare il pensiero di Heidegger rispetto alla sua fonte, cioè il pensiero classico, il pensiero fenomenologico. Si sa, il professor Volpi qui ce lo potrebbe insegnare, Heidegger si forma su Aristotele non meno di quanto si formi sulla fenomenologia. Ecco, non riesco a distaccarmi appunto nel accostare lo Heidegger e i classici, Aristotele in particolare, dal cogliere il senso, lo sforzo di una riproposizione della grande tematica classica. Ma riproposta come? Attraverso appunto l'esperienza fenomenologica. Il tentativo di riproposizione della grande tematica greca a partire dalla multivocità dell'essere, a partire dal problema della multivocità o dell'univocità dell'essere, a partire dal concetto stesso di physis. Ecco, non appare in un contesto puramente storico, anzi assolutamente non storico, ma attraverso una forte mediazione, che è la mediazione della fenomenologia. Ora Heidegger stesso ci dice che la fenomenologia non è una corrente, ma è la cosa del pensiero, proprio nella misura in cui vuole andare alle cose stesse, alla cosa in carne ed ossa, nella sua nudità, cioè nudo, no, svestito dai suoi rivestimenti teorici. Ecco, credo che qui proprio si giochi il senso della radicalità di un pensare che non è un pensare dialettico, ma che è un pensare ermeneutico, nell'accezione che ho cercato così in qualche modo di prospettare. E questo è pregiudiziale, questo punto è, a mio avviso, pregiudiziale anche nella prospettazione del senso del divino in Heidegger, perché indubbiamente è un approccio, se è un approccio di tipo ermeneutico e quindi non dialettico, forse può servire come punto di partenza per chiedersi, per interrogarci circa la esattezza fino in fondo di quelle interpretazioni che dicono: allora neghiamo il Dio della metafisica per affermare in Heidegger il divino. Mi chiedo se questo non sia ancora uno schema dialettico, quello schema della dialettica che un pensiero ermeneutico radicale sarebbe intenzionato a superare proprio. Grazie. Questo non funziona? Sì, funziona anche questo. Sì, funziona meglio del mio. No, scusate, ora volevo dire, cioè, De Vitis lavora da parecchio tempo Heidegger, Nietzsche e anche altri autori, chiaro. Allora, sì. È brutto quello che ti chiedo, insomma, sintetizzi sì, sì. In due parole. È assurdo, sì, ecco. Ma io posso richiamarmi proprio al titolo della mia pubblicazione fondamentale su Heidegger, che è del 1974, adesso non è che voglio fare qui la storia di me casa stesso, editrice. No, casa editrice, infatti non la dico in modo che non faccio pubblicità, no? Ecco, è che era intitolato Heidegger e la fine della filosofia, quindi questo tema della fine della filosofia, perché l'ho scelto? Perché avevo l'impressione che la filosofia nel nostro tempo fosse in qualche modo contestata, nel senso che le si contrapponevano, le si preferivano saperi non solo operativamente più efficaci, ma anche presuntivamente più rigorosi, no? Quindi le scienze naturali, ma anche umane. Ecco. Quindi, nel nostro tempo, la filosofia ha bisogno di una di una giustificazione in qualche modo, diciamo, di una apologia, no? E Heidegger si poneva proprio questo problema. Adesso l'ho detto in termini così molto elementari, ma poi in realtà dietro c'era qualcosa di ben preciso per quanto mi riguarda, perché io ho studiato con Spirito a Roma, no? E quindi Spirito faceva questo discorso di risoluzione della filosofia trascendentale nella sua ultima espressione attualistica nella scienza, no? Quindi dietro c'è anche una formazione, così le cose si possono dire sia in termini così biografici o di senso comune, si possono dire anche poi in termini proprio di categorie filosofiche, no? Ecco. Quindi questo tema, comunque, anche proprio l'attualità in senso situazionale, diciamo, di questo tema della fine della filosofia. Cos'è questa fine della filosofia? La filosofia che si risolve nei saperi, logico sperimentali o anche operazionali, operativi, no? Quindi lo dice specialmente Heidegger, la filosofia si risolve da varie parti nella logistica, nella sociologia, nella psicologia, lo dice proprio esplicitamente, non è questa una mia così interpretazione, lo dice più volte, l'ho trovato anche nella Chiesa Antauscapi, cioè proprio la filosofia che si risolve in qualcosa d'altro, ecco. La filosofia però, tradizionale, però non il filosofare suo. Sì, certo, però è questo appunto, cioè, però Heidegger fa anche osservare che rimane sempre un residuo, no? Quindi distingue tra la filosofia e il pensiero. Ora, se proprio volessimo schematizzare quasi a modo di manuale, ecco, potremmo dire che la filosofia per Heidegger è concetto, sapere logico-concettuale e sapere del fondamento, sapere fondante, no? Sapere le ragioni di qualcosa, di un ente. Ecco, invece il pensiero Heidegger lo definì, quindi la filosofia finisce, ecco. Cioè l'organizzazione razionale della realtà, in fondo, nel nostro tempo, la fa la scienza. Su questo Heidegger è d'accordo con i positivisti, diciamo, no? Ecco. L'organizzazione razionale del sapere, diciamo, della realtà, le categorie in base a cui noi, ecco, ci muoviamo nella realtà dell'esperienza. Questo oggi lo fa la scienza, non c'è più bisogno della filosofia, no? Ecco. Però rimane sempre un residuo ineliminabile. Allora il pensiero che Heidegger invece definisce come un esperire e un interrogare, no? Che significa esperire e interrogare? Beh, intanto significa che rimane una problematicità, diciamo, radicale, che è proprio legata al nostro essere nel mondo, no? Che non può essere risolta da questi saperi empirici, operativi, no? E poi rimane anche l'esperire, cioè rimane un momento prelogico del pensiero, uno dei discorsi di fondo che fa, che mi sembra, a cui si riduce anche poi il suo interesse per i presocratici, no? Che la logica non è originaria, no? La logica sia nel senso della logica formale, sia nel senso della logica dialettica, no? Perché il logos, prima di essere un lege intikatatinos, cioè un giudicare, un dire qualcosa su qualcosa in greco, era un raccogliere, dove poi il raccogliere dell'uomo, come dice Eraclito, è lo stesso raccogliere della physis, no? Cioè noi siamo in una corrispondenza a un logos che è l'essere stesso, no? Quindi c'è sempre un momento, in termini fenomenologici possiamo chiamare precategoriale, no? C'è sempre un residuo, no? Ecco, non risolvibile, non risolvibile, quindi non c'è nemmeno una possibilità, ecco, si è parlato molto di postmoderno, no? Non c'è nemmeno la possibilità poi di una modernità che si distacchi completamente dalla tradizione in qualche modo, perché la tradizione sempre riemerge per aria, questo discorso sulla tradizione, no? Quindi sempre in quel saggio sull'epoca dell'immagine del mondo, lì si vede chiaramente, cioè non, non si può quantificare tutto, alla fine viene sempre fuori qualcosa di non quantificabile. Questa sembrerebbe una sorta di quasi di dialettica hegeliana, di quantità e qualità, e quindi anche riemerge sempre questa tradizione che poi in questo momento prelogico, precategoriale, insomma, ecco, quindi in qualche modo effettivamente è proprio il filosofo del nostro tempo, no? Perché ha pensato questo risolversi della filosofia nella scienza, che è un fatto, che lo vediamo anche noi oggi, no? Vediamo che anche noi oggi questa riforma universitaria, in qualche modo, vero? Cosa succede? Succede che la cultura diventa sempre più finalizzata all'apparato produttivo. Questo è inevitabile, eh? Questo è il nostro geschick, il nostro destino. Però sappiamo che ci sarà sempre un residuo che non potremo mai risolvere, no? In questa operatività, come dice Heidegger, insomma, in questa ricerca che cresce su se stessa, no? Cioè che crea i propri oggetti, diciamo, veramente in cui quasi una circolarità dell'autocoscienza, sì. C'è sempre un residuo ineliminabile, insomma, al di là della logica, della dialettica, della scienza quantitativa, c'è qualcosa che sfugge, insomma. Molto bene. Questo è il cuore di Heidegger. Questo è il cuore di Heidegger, il cuore di Heidegger. Cioè quello che l'eredità di Heidegger, insomma. Com'è? È l'eredità di Heidegger. È l'eredità di Heidegger, no? È questo. Va bene, grazie. Prego. Volpi, ho chiamato prima in causa, però dal momento che tu non parli ti posso fare un'altra domanda, dopo passa. Cioè, allora, anche tu hai scritto su Heidegger, e Aristotele e Brentano, no? Allora, anche Zanata ha scritto su Aristotele, cioè, in breve, tu ritieni che l'interpretazione che dà Heidegger di Aristotele sia un po' diversa da quella aristotelica, la tradizione aristotelica, cioè che riscopra un nuovo Aristotele? Sì, diciamo che in qualche modo l'idea di verificare attraverso proprio certi corsi che sono stati pubblicati il modo in cui Heidegger si confronta con Aristotele in qualche modo è dettata da l'esigenza di chiarire un attimo il tipo di rapporto che Heidegger ha instaurato con una tradizione nei confronti della quale noi in quel sistema di ricerca di cui parlava poc'anzi, che è la ricerca scientifica, accademica, universitaria, abbiamo instaurato in un modo assolutamente diverso, cioè in qualche modo Heidegger ci propone un modo di leggere i classici che contrasta e strida con quella che è la pratica di lettura, diremmo così, diffusa nel mondo degli studiosi del mondo classico. Tanto è vero che negli studi su Aristotele credo che le tesi di Heidegger vengano rarissimamente considerate e quando lo sono, sono per lo più criticate per la loro violenza interpretativa. Allora, io credo che ci imponga la questione di capire qual è lo spirito che anima il tipo di confronto che Heidegger instaura con testi come Aristotele, ma lo stesso discorso credo vada fatto per Kant, per Descartes, per Hegel, per Husserl, per molti altri momenti fondativi della nostra tradizione con i quali Heidegger instaura un tipo di rapporto del tutto particolare. Ora, io credo che questo tipo di rapporto non possa essere liquidato con l'argomentazione scontata di una sua insostenibilità filologica, cioè con la ragione con la quale solitamente si sbriga appunto il modo heideggeriano di leggere i classici dicendo che Heidegger, e già lui stesso lo dice, fa violenza ai testi, dunque fa dei testi l'uso e l'abuso che crede, ma un uso e un abuso dei testi non ci può interessare. Io credo che questo sia un argomento che ha una parte di ragione, ma che ci occlude la possibilità di capire un senso più profondo che sta dietro al tipo di appropriazione che Heidegger ci propone di questi testi. E allora direi che il suo tipo di lettura del della filosofia tradizionale, il suo confronto con la filosofia tradizionale non è un tipo di lettura limitabile nella dimensione della interpretazione, ma è un lavoro di vera e propria appropriazione assimilativa e quindi di confronto mirante ai problemi che stanno dietro a quei testi o che in quei testi vengono individuati per la prima volta, congiunto al tentativo di restituirci, se non il senso sostanziale, perlomeno delle esperienze equivalenti nel contesto attuale del pensiero. Quindi credo che, per esempio, nel modo in cui noi vediamo il giovane Heidegger cimentarsi con testi come l'Etica Nicomachea o la Metafisica di Aristotele, vediamo al lavoro un pensatore di razza che riesce a recuperare, al di là della dimensione meramente ripetitiva o ricostruttiva che ha la sua legittimità e le sue possibilità nell'ambito appunto della ricerca istituzionalizzata, vediamo un pensatore che ci restituisce in qualche modo i problemi che stanno dentro a quel testo con una capacità straordinaria di renderli appunto attuali e dunque di anche riproporli nella loro scusami, la efficacità. Seconda domanda, ma velocissima, rispondi, cioè si potrebbe dire dal punto di vista culturale che si ripete quello che è stato fatto con la nascita della tragedia, quando Nietzsche scrive la nascita della tragedia, Vilamovic e tutti quanti i filologi che si accaniscono contro Nietzsche perché praticamente non ha osservato, perché lui voleva vedere oltre il termine filologico la problematica che era indietro, così Heidegger reinterpreta Aristotele, un'analogia, la vedi? Sì, certamente, anzi credo che ci sia anche un fondamento testuale molto preciso, cioè nel richiamo che Heidegger stesso fa, il modello diciamo così nietzscheano di un'appropriazione critica in contrapposizione alle altre due forme di appropriazione della storia, critica nel senso che non riproduce o ripete o musealizza il passato, ma ne cerca appunto una riattivazione nella dimensione contemporanea. Grazie. Adesso Costantino Esposito, la tua lettura. Ma io vorrei solamente dire quello che ho imparato e che mi ha affascinato. E la prima cosa è questa qui, che Heidegger mi ha affascinato perché è una persona che guarda la realtà. Cioè non è interessato innanzitutto a elaborare delle teorie o a interpretare nel gioco infinito degli specchi in cui spesso il lavoro filosofico rischia di ridursi altre teorie, ma di tentare, direi quasi bruscamente, forse anche ingenuamente o rozzamente, però di vedere le cose. E forse il primo fascino è questo qui, che aiuta a riaprire gli occhi sulla realtà, a capire, a domandarsi originariamente il perché delle cose, il posto delle cose, il tempo delle cose. Ma non è soltanto questo, perché questo è l'esperienza originaria di ogni bambino, insomma, della nascita della coscienza. Ma il passo in più che mi ha insegnato è a leggere ogni cosa presente con dentro una mancanza, con dentro un'assenza. Lo dico con termini miei, probabilmente lui sarebbe non d'accordo su questa traduzione, però in fondo, ecco, se vogliamo non fare un discorso tecnico o meramente storiografico, ma dire la suggestione ultima è questa qui, cioè che guardando le cose si scopre che la loro presenza porta dentro di sé un'assenza. E cioè rimanda ad altro, lui la chiamerebbe forse la differenza ontologica. O per dir meglio, se è possibile riscoprire le cose non più come oggetti manipolabili cosmologicamente, e quindi anche se è possibile riscoprire se stessi non più come un puro soggetto, come un puro io, ma come un'apertura all'evidenza. Ecco, forse dire presenza sarebbe meglio dire evidenza, un'evidenza che però porta un rimando dentro di sé. E poi un'altra cosa che mi ha molto colpito, ed era la coscienza della storia che lui aveva, e ovviamente in una sequenza, in un mutamento, in un approfondimento dei problemi, e che comunque riscoprire il mondo e riscoprire sé poteva essere fatto soltanto storicamente, ma non banalmente perché si era nella storia, ma perché si era segnati da una responsabilità, si era segnati da avvenimenti che interpellavano così profondamente se stessi e la realtà da essere impressi nel modo di darsi della realtà. Un nota bene, paradossalmente questo approccio non filosofico alla realtà è poi il più produttivo ermeneuticamente, perché benché Heidegger sia passi come l'autore forse più antimetafisico che c'è, probabilmente una delle cose che più sa insegnare è come portarsi dietro il tesoro della metafisica. Grazie. Oh, adesso abbiamo Gian Piero Moretti e sì, concludiamo. No, ma farò breve. Però non aspetta, prima dimmi. Volevo dire una parola. Cioè, tu hai fatto, hai scritto su Heidegger, hai fatto anche un bel numero speciale su Heidegger. Cioè, qui, tra parentesi, abbiamo di fronte studiosi che non hanno fatto un libro su Heidegger, continuano a lavorare, se non direttamente su Heidegger, su quel clima heideggeriano, perciò ci troviamo a casa nostra, diciamo. Allora, Moretti, ci troviamo a casa nostra anche con te, però Moretti ha sottolineato, direi, più la dimensione, non in Heidegger, ma nelle tue ricerche, del mito. Ha lavorato su Bäumler, su Bachofen, su Nietzsche, su Heidegger. Cioè Moretti ha fatto lavori anche sul romanticismo, perciò ha questo taglio interpretativo che oggi è uscito anche fuori da alcuni tedeschi, il taglio interpretativo anche del rapporto tra mito e logos. Ecco, allora questo era, volevo... Ma io ti ringrazio, Giorgio, per darmi questa possibilità. Avendo già chiacchierato abbastanza oggi, in realtà tutti gli altri amici non hanno parlato, quindi io cercherò di essere veramente brevissimo. Effettivamente penso sia venuto fuori anche da quello che dicevo nelle paginette lette questo interesse per una delle cose più radicali, e qui mi riallaccio a quello che diceva il professor Zanatta prima, che anche per me è un interesse di radicalità nel pensiero di Heidegger, e cioè il suo non interesse in un senso esteriore, ma proprio nel senso interno della cosa stessa, come Heidegger mi sembra definisca l'interesse in un corso che credo sia Cosa significa pensare. Il rapporto fra pensiero e poesia, sostanzialmente, che è un rapporto che si porta presso, a livello di storia della metafisica, quello che è il rapporto fra mitos e logos. In Heidegger tutto questo assume un aspetto e una caratteristica di radicalità con la quale, a mio modo di vedere, occorre fare i conti fino in fondo, a meno che non si voglia così un pochettino capitolare di fronte a una numerosissima serie di saggi dove forse, almeno forse io qui non so, forse esagero, però dove forse Heidegger dice delle cose fondamentali rispetto a tutto il resto della sua ricerca, che sono i saggi su Hölderlin, che sono infiniti quanto a ricchezza, e poi anche i saggi su tutti gli altri poeti che lui mano a mano va a toccare. Possiamo, diciamo, nel momento in cui consideriamo il rapporto fra Heidegger, la metafisica, la fine della metafisica, la fine della filosofia, la questione del linguaggio, possiamo dimenticare che in fin dei conti Heidegger forse arriva a questo tipo di radicalità attraverso il confronto con la parola poetica? Ecco, questa è un po' la domanda che mi ha guidato nel modo di affrontare Heidegger, e spero possa così continuare in qualche modo a guidarmi. La seconda domanda è il rapporto tra questa... Bellissima. Cattivissimo. No, non sono cattivo. No, sto scherzando. Anzi, non mi piace, i tuoi scritti li leggo volentieri. Cioè, più che volentieri. Cioè, il rapporto tra lingua e linguaggio. Scusami, cioè, accettiamo tra... a Gadamer, no? La lingua, la poesia. Ah. Cioè, il rapporto come Gadamer ha portato questo annuncio heideggeriano sulla lingua al linguaggio. Cioè, come tu vedi qui Gadamer proprio su questa riva? Io avevo fatto una noticina vagamente polemica proprio nel corso della relazione stamattina, oggi pomeriggio. Io non sono d'accordo sull'urbanizzazione della provincia heideggeriana, sostanzialmente la ritengo un'operazione, non lo so, non utile per chi realmente voglia fare i conti fino in fondo con Heidegger. Per questo mi sembra debba essere accettato fino in fondo il colloquio che Heidegger fa con il linguaggio e cercare di passare attraverso questo colloquio, cioè che significa portare il linguaggio al linguaggio sostanzialmente, è una posizione di una tale radicalità che la posizione di Gadamer invece, voglio dire con tutta la modestia con cui uno può dire queste cose, mi sembra voler cercare una sorta di aggiramento per riportare ciò che Heidegger aveva spalancato su un terreno di sicurezze che però non so quanto ci rassicurino fino in fondo, ecco, questa è un po' la mia idea. Tutto bene, grazie. Allora adesso grazie a te. Abbiamo ancora 10 minuti, per cui farei un altro round, ma partire da te così, perché così ormai ci sei. Cioè, dal momento che il tema è Heidegger e la teologia. Heidegger e teologia. Allora, non è solamente Heidegger e la teologia un tema, è il tema o un tema? No, mezzo tema. Ah, sì. Cioè bisogna sapere tutta la teologia, ma qui facciamo solo Heidegger. Non siamo teologi. Sì, è giusto, però anche questo è tuo. Allora facciamo questo e facciamo l'altro. Sì. Mezzo tema, allora facciamo mezzo tema e facciamo l'altro mezzo. Ma io scelgo di stare nel mezzo dei due mezzi, insomma, anche perché altrimenti a spaccare troppo il capello finisce che non ci muoviamo più. Come Heidegger spesso rispondeva alle domande troppo dirette, si risponde di sì e di no, sostanzialmente. E cioè si può dire che è chiaro che la teologia è un tema centrale perché poi è il problema di un linguaggio e di un dire non oggettivanti, come è venuto fuori, il quale linguaggio e dire non oggettivanti si trovano di fronte al problema più radicale, cioè di dire, fra virgolette, in modo non oggettivante, il nome dell'ente supremo. E quindi è chiaro che in questo senso è il tema in assoluto. Se tuttavia consideriamo però che anche questo tema rientra, fra virgolette, nel discorso più generale su che cos'è il linguaggio, ecco che allora sembra scivolare. Con l'idea della differenza e dell'identità come coappartenenza di queste due posizioni forse riesco un momentino a cavarmela e a passare di nuovo la parola. Molto bene, in maniera che riesca. No, no, siamo convinti. Sì. No, allora se colgo la provocazione. Devi essere molto taxato. Sì, sì, sì, sì. Forse la cosa più interessante per me è il rapporto con la teologia cristiana e con il cristianesimo. E c'è una cosa che mi ha colpito, sia nel Nietzsche ma anche in un testo su Schelling, parlando della secolarizzazione, Heidegger dice che è un termine inesatto, perché la secolarizzazione va correlata in realtà al fatto, alla cristianizzazione, cioè la cristianizzazione in realtà non è che una immagine destinale della produttività metafisica del mondo greco e quindi in un certo senso il guanto si rovescia. Problema. Che cosa secondo me rischia di perdere Heidegger? Il fatto che probabilmente il cristianesimo e la teologia cristiana è l'unica religione, chiamiamo, ma non è l'unico fatto di salvezza storico, è l'unica teologia in cui non è reversibile il rapporto tra fatto e interpretabilità. Il fatto rimane, ha sempre una eccedenza. Il pericolo di Heidegger è di reinterpretare questo fatto all'interno del pensiero e quindi di svuotarlo. Non è un caso che l'ultimo Dio di cui parlano i Beiträge non esiste di fatto, cioè il Dio che, di cui non sappiamo se verrà o non verrà è la stessa oscillazione della indecisione, ma in realtà non c'è niente che può venire o deve fuggire. Non è un caso che più avanti il Dio che rientra, che viene impigliato nell'insieme dei quattro, nel Gefirt, appunto è un Dio che ha bisogno necessariamente di essere intricato negli altri tre per essere se stesso, e quindi ancora una volta è ostaggio del pensiero e dell'essere. Non faccio un contro, cioè non sono troppo d'accordo completamente, sono d'accordo con del tutto, ma adesso passo a Volpi, dopo lo facciamo a casa. Ma io, se dovessi dire qualcosa su Heidegger e la teologia, lo direi anche per entrare un attimo in colloquio, discussione con i colleghi che sono intervenuti, riprendendo alcune osservazioni, o un filo che mi sembra abbastanza continuo tra alcuni degli intervenuti, quello che diceva molto giustamente l'amico Bosio, cioè la funzione di Heidegger come un pensatore che mette in questione. Credo sia una delle cose, una delle esperienze che certamente la lettura di Heidegger ci trasmette, sulla quale ci forma, l'esigenza di radicalità di cui parlava l'amico Zanatta, ripresa anche da, dall'amico Giampiero. Credo allora che se noi ci poniamo il problema di quale sia stato o di quale sia in linea di principio il rapporto tra Heidegger e la teologia, e d'altra parte tra la teologia ed Heidegger, non dobbiamo dimenticare come questo rapporto sia costantemente attraversato, perlomeno dalla parte di Heidegger, di una attivazione assoluta di una soglia di vigilanza critica del pensiero che impedisce ad Heidegger l'adesione in linea di principio a qualsiasi elemento di proposizione, quindi a qualsiasi elemento propositivo, e l'attivazione di una altrettanto forte decostruzione in linea di principio di qualsiasi pensiero che si ponga come propositivo, sia esso pensiero filosofico o teologico, o tanto più teologico. In questo senso direi che tanto più noi ci confrontiamo col rapporto che Heidegger ha instaurato con la teologia, e tanto più noi tendiamo ad avvicinare la riflessione di Heidegger alla problematica teologica, tanto più noi ci troviamo a dover fare i conti con l'altro aspetto del confronto di Heidegger con il problema, e cioè con lo Heidegger nichilista. Allora, secondo me, Heidegger nichilista, o Heidegger, non direi come per specificare questo accostamento, non come apologo apologeta del nichilismo, ma perlomeno come acceleratore del nichilismo, nel senso in cui io vedo un'accelerazione laddove egli ci dice che uno dei compiti del pensiero è quello non di cercare proiezioni in avanti e scappatoie che fuggano dalla situazione nichilistica contemporanea, né quella di trovare reazioni al nichilismo che ritornino all'indietro. Non serve mettere alla porta un ospite che già si aggira ovunque per la casa, ma quel tentativo di raccogliere le forze rimaste ancora intatte dalla consunzione nichilistica per reggersi nel vortice del nichilismo, come dice Heidegger, e per portare il nichilismo fino alle sue estreme conseguenze. Io credo che questo sia il rovescio della medaglia che noi dobbiamo tenere presente ogni qualvolta tentiamo di schiacciare troppo la prospettiva heideggeriana sulla problematica teologica. E su questo punto io sono d'accordo con Regina nel sottolineare che uno dei punti di forza di Heidegger è proprio quel punto in cui Heidegger arriva ad affermare che il domandare è la pietà del pensare, ma non lo leggerei in termini propositivi. Quella frase viene alla fine di un discorso sulla tecnica che recepisce i discorsi di Junger e che è assolutamente l'esaltazione di quella potenza del domandare che consiste nel dissolvere ogni sostanziale. Quindi io vedo, e qui concordo di nuovo con Bosio, dove sottolineava anche gli aspetti sconcertanti di questa riflessione, perché credo che proprio nel lavoro di interrogazione radicale che Heidegger propone, egli ci porti a quell'esercizio, quella fisiologia del pensiero che, esercitata nella sua maniera più radicale, porta a un vuoto di contenuto, in sostanza, a un vuoto di contenuto. Potrei articolare un attimo questo discorso in relazione alla teologia, all'accostamento alla teologia, alla mistica, alla gnosi, ma non vorrei occupare troppo spazio, lasciamo la parola a De Vitis. Sì, De Vitis, perché abbiamo pochissimo adesso. Grazie di queste osservazioni. Se abbiamo i minuti. Ma io direi che c'è una polemica di fondo di Heidegger con la teologia, no? Sì. Che sono alcuni passi in cui Heidegger dice: nel momento in cui inizia la teologia, il Dio muore, il Dio fugge, no? Sono un po' sparsi nelle sue opere, soprattutto nelle lezioni sulle si trovano, ma non solo lì, ecco. Quindi, perché questa polemica con la teologia? Perché nella teologia c'è il logos, no? E quindi il logos poi si sviluppa in ratio e conduce quindi a una assolutizzazione della ratio e alla morte di Dio, ecco. Quindi credo che questo sia il senso di fondo di questa polemica con la teologia. Ma quindi allora Heidegger che cosa propugna? Cioè un'esperienza religiosa non riflessa, non teologizzata, cioè una, diciamo, esperienza religiosa, non religione, perché nemmeno il termine religione piace molto a Heidegger, in quanto dice che è un prodotto della latinità, della romanità, ecco. E quindi cosa propugna? Un'esperienza religiosa non riflessa, non teologicizzata. E c'è stato un articolo di Pugler abbastanza recente, Heidegger e la teologia ermeneutica, in tedesco, cito il titolo italiano, qui addirittura, insomma, fa l'ipotesi che una religione non teologizzata potrebbe essere pericolosa, perché conduce al fanatismo, e dice Pegore, vediamo succedere nell'Islam, no? Si recepisce anche la scienza, la tecnica moderna, però siccome la religione non è un fatto riflesso, in quei paesi produce il fanatismo. Ecco, non lo so, insomma, se appunto questo può essere un aspetto, questa polemica contro la teologia, perché la teologia è il logos dell'esperienza religiosa e quindi ne mette in pericolo l'originarietà, l'immediatezza. Questo può essere un aspetto del rapporto, ma ce ne possono essere. Ma poi non abbiamo mai parlato del rapporto dei teologi con Heidegger, sempre il rapporto di Heidegger. Io per esempio mi ricordo che parlai, ma c'è un amore odio dei teologi per Heidegger. Adesso finisco in un minuto. Io parlai con questo è ovvio, con Rahner, no? Mi ricordo che parlavo con Rahner e lui minimizzava molto il suo rapporto con Heidegger. Sì, io sono stato allievo di Heidegger inizio anni 30, diceva Rahner qualche mese prima che morisse, però poi non è che me ne sia interessato molto, perché mi disse addirittura che non aveva mai letto la famosa opera In cammino verso il linguaggio, che è uno dei capolavori. Se io dice, vede, non posso essere stato influenzato molto da, però poi invece ci sono anche altre opere, e sono, no, un momento, ci sono poi invece delle dichiarazioni di Rahner molto riconoscenti nei confronti del suo maestro. Quindi c'è un po' un rapporto amore e odio nei teologi, questo se vogliamo vedere l'altra metà del problema. Credo, insomma, non c'è nessun teologo che è entusiasta per Heidegger, però non c'è nemmeno un teologo contemporaneo che può fare a meno di confrontarsi con Heidegger, ecco. Sì, grazie, perché mi è venuto in contatto una, se mi permette una parola fuori campo, cioè ti do ragione su questo qui, perché indirettamente, no, stai buono, non c'entra ragione, cioè indirettamente vuol dire che Heidegger è intrinsecamente aperto ho un pensiero teologico. Stop, chiudo. Indirettamente, la tua no, è contrario, perché la sensibilità di Bultmann, di grandi teologi che si aprono a Heidegger, vuol dire che Heidegger all'interno offre un terreno, è chiaro, anche nella sua polemica offre un terreno. Scusi, mia risposta, sposta a te. Non dovevo rispondere, non c'entro io. Zanatta. In 3 secondi mi pare di un secondo e mezzo. Un secondo e mezzo. Allora, te ne ho rubato uno, scusami. Direi, a mio sommesso avviso, la possibilità del pensiero di Heidegger verso l'apertura di una teologia, sì, ma è una teologia apofatica, cioè una teologia negativa. Ma una teologia negativa non vuol dire che si risolve allora semplicemente in una assenza di contenuto, in una forma irrazionalistica, vuol dire dar forma speculativa al silenzio, far forma speculativa al nulla, allo silenzio. E proprio per stare nel 20 secondi direi allora è la figura dell'analogia, la figura della metafora, no? Che prende spicco. E qui mi proprio ho gettato lì un flash, il tema della luce, no? Bayer-Wald segna proprio questa presenza della luce come momento di aggancio a questo divino che non può mai essere detto, ma proprio perché non può mai essere detto, questo si dà. Abosio, prima che tu cominci, un'altra parola che mi viene, chiedo sempre scusa, scusami, l'ultima parola che volevo dirti, cioè, non è, direi, mi rilascio perché tu mi hai sollecitato con la teologia negativa, eccetera, direi che i teologi contemporanei, cioè contemporanei, cioè teologi del nostro tempo, non si sentono bene né con una teologia né con un'altra e vogliono ricominciare da zero, c'è la problematica, allora praticamente Heidegger li ha messi in questione, ecco basta, solo questo. Scusami Bosio, sì buono. Sì, brevissimo, opportunamente direi sulla traccia di Zanatta, una teologia della luce, più che della luce, del lampo, del fulmine, pensiamo lì a suo, il suo commento a Eraclito scritto con Fink, insomma un tralucere che subito è un nascondersi, un divino che ci fa impazzire nascondendoci, un senso indubbiamente di esaltazione, di depressione che non può essere facilmente tollerato da nessuna teologia che voglia essere in qualche modo un'esposizione, un'esposizione di una parola rivelata di Dio, insomma, è evidente. Questa per me è la più grande difficoltà di Heidegger di fronte ai teologi, insomma. Ma se avrete la bontà di chi ce l'avrà di ascoltarmi domani, qualche cenno di questo. Va bene, grazie. Regina, da primo sei arrivato ultimo. Dunque vorrei proprio un po' rifarmi a Bullman sotto la sua sollecitazione, e al tempo stesso quello che diceva Esposito prima, cioè perché è importante Heidegger per la teologia e perché qualche teologo l'ha preso molto sul serio, ad esempio Bullman, che ha scritto un libro intitolato Storia Escatologia. Secondo me il contributo formidabile, insostituibile, preziosissimo che Heidegger ha dato in questo settore perlomeno è appunto questa dimensione nuova dell'escatologia. Ma andiamo al di là della parola, perché è nuovo il senso che lui ha dato a questo? Perché ha fatto una scoperta grande? Perché ha detto un'altra cosa, forse può servire questo per capire, che il nostro inizio, il nostro passato se vogliamo dire, ci sta davanti, è il nostro futuro. Non per chiuderci in un circolo, ma per dire che le nostre potenzialità umane, la nostra origine in questo senso, è un compito che ci dà spazio, che ci dà tempo. Ecco, essere e tempo. Perché? Perché c'è tempo sconfinato, vorrei dire, senza mai essere infinito, perché è sempre finito, per essere all'altezza della nostra origine. Il tempo non è più il tempo circolare dell'antichità, non è il tempo hegeliano chiuso in sé, è un tempo di cui il cristiano ha bisogno, un tempo escatologico, in cui il futuro è inventivo senza mai essere stato progettato prima e tuttavia al tempo stesso essendo stato aperto. Ecco la parola di Heidegger, l'apertura. Apertura storica, apertura a un'inventività che è dell'uomo ma che è concessa da Dio. E qui vorrei un momentino ritornare all'osservazione, se mi è concesso, di Volpi, che mi ha colpito molto, è stato un po' birichino, nel senso che effettivamente io non vedo il nichilismo alla fine di Heidegger, lo vedo all'origine, in essere tempo, una componente nichilistica che viene meno proprio dei Beiträger. E perché dico questo? Perché questo nulla, questo nichilismo, è appunto in questa dimensione dell'escatologia, che all'inizio Heidegger vede questo ampliarsi della temporalità, preziosissimo, ma è nell'ambito della nullità esistenziale ancora. È un progetto soggettivo, come diceva anche Esposito prima. Con i Beiträger L'origine, l'eraignis è l'eraignis, non è più la nullità dell'uomo, è un'eccedenza di positivo senza essere sostanza. È una positività in qualche modo, è un essere che lui si sente il bisogno di scrivere diversamente, con la Y, che io proporrei di tradurre con la E grande, con la E maiuscola, perché appunto in quest'opera usa dell'essere con due grafie Heidegger, con la Y, vero, e con la I, anche in altre, ma qui è fatto clamoroso proprio nei Beiträge, il traduttore non so come se la vedrà, qui effettivamente, e forse non ha pubblicato più questa opera, perché effettivamente qui in Heidegger c'è una sconfessione molto chiara, e lo dice in molte pagine dei Beiträge, di essere tempo. Non voleva rimangiarsi quest'opera, che tuttavia sarebbe stato importantissimo per Heidegger pubblicare dopo la Seconda Guerra Mondiale quest'opera, perché sconfigge filosoficamente il nazismo. E quindi sarebbe stato per lui preziosissimo pubblicare questo, ma avrebbe allora dovuto, per così dire, ammettere di essersi sbagliato filosoficamente, e non ha avuto il coraggio di fare questo, secondo me. La polemica domani tra voi e te. Savignano, tu stai seduto là quieto perché hai mangiato, non ti abbiamo disturbato. Adesso tu, un momento, conclude lui. Cioè, tu hai scritto sul primo Heidegger. Hai scritto sul primo Heidegger, no? Allora, e adesso viene fuori tutto l'Heidegger morto. Questo primo. Allora, sta attento, dimmi due parole soltanto sul primo Heidegger. Veloce. Cioè l'importanza del primo Heidegger per essere tempo, eccetera, eccetera. Ur Heidegger, sì. Ur. Primo. Rulli. Ur. Devi essere telegrafico. Grazie, allora grazie, ringraziamo tutti. Vorrei dire, se qualcuno vuole riprendere Heidegger e studiare Heidegger, non che faccia propaganda dei libri dei presenti, però praticamente bisogna tenere conto di quelli che siedono a questo tavolo, che hanno scritto, hanno lavorato diversi anni, decine di anni su Heidegger. Grazie a tutti per aver ascoltato. Grazie a tutti. Dalla interpretazione della escatologia in senso esistenziale, non è la liquidazione dell'escatologia. Ma se quell'esistenziale, sì, è buona questa domanda. Cioè, dire cosa si intende per esistenziale? Se ne può fare meno, io non l'ho usato. E dico questo, la interpretazione che Heidegger, per esempio, ha fatto da Heidegger, che è chiaro, chiarissimo. Se è inficiata di nichilismo, sì, io proprio distinguerei nel primo Heidegger una componente nichilistica di funzione per l'uomo. Ma addirittura questa direi forse di antropologia. Sì, ho la stessa sensazione di cose uguali, bisogna fare una certa fatica, via. Ma comunque.